La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci, ben ritrovati alla prima rosa purpurea del nuovo anno e del nuovo decennio. Un saluto da Franco D'Assisi, l'ora di cinema di Radio 24 in questo primo sabato di gennaio, che è un po' la gran volata di queste festività natalizie al cinema. È stato un Natale molto ricco, molto competitivo, dove le cose sono andate bene in generale. Tra l'altro sono arrivati i dati di chiusura anno, il 2019 ha fatto registrare un più 14% negli incassi al cinema e un più 13% negli spettatori rispetto all'ultimo anno, miglior performance degli ultimi tre anni. Insomma, un sospiro di sollievo finale nel 2019 ce l'abbiamo avuto. Il 2020 comincia chiaramente con il piede migliore, se si può così dire, perché comincia con l'uscita ormai da qualche giorno nelle sale del nuovo film di Checco Zalone, Tolo Tolo. Se ne è parlato tantissimo ancora prima che il film fosse realmente visibile e visto, se non dagli addetti ai lavori. Oggi ne parleremo in maniera un pochino più diffusa, cercheremo di fare il punto su un film che comunque è il film più atteso non solo dell'anno, soprattutto devo dire da molti spettatori, ma anche dagli esercenti, perché è il film toccasana. Però di film toccasana questo Natale ne ha avuti, anche italiani. Sono andati molto bene Ficarra e Picone, è andato molto bene il Pinocchio di Garrone, è andato molto bene Ferzan Özpetek, è andato bene, forse non quanto ci si aspettava, Star Wars. Insomma, è andato benissimo oltre le aspettative Jumanji. È stato un Natale che ha sparigliato abbastanza le carte. E ripeto, adesso però arriva lui, arriva Checco Zalone, ne parleremo. Lo sentiremo anche Checco Zalone più tardi nella conferenza stampa che ha tenuto a Roma quando ha presentato Tolo Tolo. Ma sono quattro i film che sono arrivati in sala in questa settimana. E c'è un altro film importante italiano che si intitola 18 regali. Avremo ospiti qui con una nostra intervista Vittoria Puccini e Benedetta Porcaroli in un film con Edoardo Leo fra i protagonisti. Insomma, materiale ce n'è molto. C'è anche Ken Loach, ascolteremo anche l'intervista a Ken Loach prima della fine della trasmissione col suo nuovo Sorry We Missed You, che è la proposta d'autore di questo inizio anno. Ma cominciamo con l'animazione, che non è stata sicuramente il genere dominante. Tanti anni fa era così, il film d'animazione era quello che dominava le festività di fine anno. Questa volta Spie sotto copertura è andato davvero maluccio. Ci riprova con nuove ambizioni Playmobil The Movie. Che succede in questo posto assurdo? In questo mondo niente è come sembra. Un minuto fa era tutto diverso. Molto diverso. Ero con mio fratello Charlie. È magico! Charlie, no! Che sta succedendo? Devo trovare il mio fratellino. Ha un aspetto diverso. Ho dei superpoteri! Incredibile. Qual è il tuo nome, guerriero? Charlie. Pensavo che la tua voce fosse più profonda. Gli ingredienti sono quelli che abbiamo già visto in altri film anche recenti, quando giochi fisici sono diventati materiale cinematografico. Pensate a The Lego Movie, tanto per dire, ma anche un po' a Toy Story, dove i giocattoli si animano e hanno una loro vita e dei loro mondi. Quello che succede in Playmobil The Movie è più o meno quello. La storia di Marla, una ragazza in carne e ossa che viene risucchiata nel fantastico mondo di Playmobil insieme al fratellino Charlie. La giovane trasformata da umana in giocattolo dovrà insomma cercare di ritornare alle sue sembianze abituali salvando il fratellino, ma conoscerà dentro questo viaggio, questo mondo dei giocattoli che hanno fatto la fortuna di questa casa tedesca. Playmobil è sempre stato un po' il gioco di costruzione più, come dire, più alto come segmento, come posizionamento commerciale rispetto a Lego. Noi siamo in contatto, come sempre, anche in questa prima puntata dell'anno con Boris Sollazzo. Ciao Boris e buon anno! Buon anno anche a te e a tutti gli ascoltatori. Noi ci facciamo il buon anno di solito per le prime 3-4 puntate, poi dopo giuro la finiamo, però insomma per il momento è ancora molto presto ed è sempre bello augurare anche a chi ci sta ascoltando ovviamente un buon 2020. Boris, Playmobil The Movie, dicevo, adesso è diventato un po' un trend quello di portare dei brand molto forti, come è stato appunto con i Lego per esempio, sul cinema. Ci prova Playmobil The Movie, mi sembra, con una struttura che è abbastanza scontata, no? Se vogliamo, il viaggio da che è anche un po' quello di Jumanji, se vogliamo, no? Da persona in carne e ossa a ritrovarsi in un ambiente virtuale che però sembra terribilmente reale. Qui però i giocattolini, i Playmobil, hanno anche una fisionomica molto umana che probabilmente gioca un po' a loro favore, penso, rispetto a Lego Movie, che ha avuto bisogno di altre strutture narrative per cercare di sfondare, di trovare una comunicazione con il proprio pubblico. Ma è un po' come quando eravamo piccoli, se dovevi andare sul sicuro regalavi i Playmobil, perché in qualche modo erano più rassicuranti, erano anche più impersonali e avevano una versatilità maggiore. Queste doti sono diventate anche i punti di forza del film. Questo perché? Perché sostanzialmente si prende l'effetto Jumanji, no? Come dicevi tu, per fortuna solo nel soggetto e non nella realizzazione dell'ultimo film, che era abbastanza imbarazzante, ovvero l'essere catapultati dalla realtà fisica a una realtà virtuale, a una realtà alta, in cui si ha un corpo diverso, e poi l'uso di modelli narrativi e generi narrativi che i Playmobil hanno sempre impersonato. Cioè il Playmobil era sempre uguale, poi se gli mettevi un cappello da pirata avevi un galeone, se gli mettevi un cappello da cowboy avevi un ranch e via dicendo. Il punto è però che tutti siamo lì per vedere quel mondo là, e quando si entra in quel mondo là tutto diventa molto più fluido, proprio perché non c'è bisogno della sovrastruttura cinematografica solida, ma basta in fondo andare per quadri con una narrazione orizzontale e verticale molto semplice, molto schematica, che noi accettiamo per tutto quello che abbiamo detto fino adesso. La scrittura è buona, nel senso che tutto ciò che concerne le interazioni, le battute, l'ironia funziona, anche perché è decisamente elementare. Playmobil rispetto ai Lego Movie è un film davvero per famiglie e davvero per bambini. Lego Movie non lo è affatto per bambini, almeno per i piani di lettura più interessanti, quelli più ironici, più sarcastici, anche più pesanti a livello politico, insomma. Ma il primo film sui Lego era davvero qualcosa che intrecciava una critica alla società attuale con una visione anche politica e antropologica molto forte. Qui non troverete nulla di tutto questo. Questa è una favoletta molto ben riuscita, molto agile, che non regala nulla alla storia del genere in questione, non regala nulla neanche in termini di qualità, ma fa esattamente il suo, esattamente come erano i Playmobil, che li regalavi e ci anni facendo sempre gli stessi giochi, perché ai bambini la ripetizione piace e funziona. E questa è una semplice regola che a volte al cinema si può seguire, soprattutto per fare cassetta. In questo mondo niente è come sembra. Chi sei tu? Scherzi? Il bagliore scintillante, gli svolazzi, sono la tua fata madrina. Hanno rapito mio fratello Charlie. Puoi usare la bacchetta magica per riportarlo da me? No. Quindi tuo fratello è scomparso. È alto più o meno così. Ha tatuaggi, barba. Wow, è strepitoso. E quanti anni ha? 10. Playmobil The Movie al cinema, adesso linea alla viabilità, fra poco torniamo, i primi ospiti di questa puntata con 18 regali e Vittoria Puccini e Benedetta Porcaroli che saranno qui con noi, poi dopo arriva Checco Zalone, fra poco. Un luogo, una storia, una radio a colori. Da Pieve Santo Stefano, la città dei diari, ai sentieri delle Langhe di Beppe Fenoglio, al viaggio di Alan Lomax nel Salento, ai chilometri in battello sul fiume Po, alla memoria del Golfo dei Poeti, al blu del mare dell'isola greca di Castellorizzo, fino ai set cinematografici. Un luogo, una storia. Di Daniele Biacchessi. Ogni venerdì una nuova puntata in esclusiva su Radio24.it. Racconterò le piccole storie che attraversano la grande storia, i luoghi e le persone. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora qua, La Rosa Purpurea, seconda parte. Fra poco, come vi dicevo, Checco Zalone, lo ascolteremo anche, ne parleremo diffusamente del suo Tolo Tolo, il film più atteso dell'anno, ma un altro film italiano adesso vogliamo presentarvi, che è uscito da pochi giorni, si intitola 18 regali, ascoltiamo la clip. Cara Anna, vorrei dirti tante cose. Vorrei dirti come la vita e come va affrontata. Slip inside. vorrei trasferirti il mio modo di fare e di pensare. Se c'è una cosa che ti piace tantissimo, la mangi subito o la lasci alla fine? Alla fine. Non abbiamo veramente un cazzo in comune io e te. Meno male. Vorrei esserci nei momenti di difficoltà. Ma non si può. Il destino ha deciso così. Avete sentito una parte del trailer di 18 regali, un film diretto da Francesco Amato, interpretato da Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli, Edoardo Leo, Marco Messeri, tra l'altro, per dare un altro nome noto, un volto assolutamente ancora più noto. È ispirato alla storia vera di Elisa Girotto, che fu raccontata poi dal marito Alessio Vincenzotto, di una donna, Elisa, incinta, che durante un controllo di routine scoprì che sì, certo, la bambina che aveva in grembo stava bene, ma che invece lei aveva un tumore ed era una situazione che l'avrebbe portata forse addirittura a non conoscere questa bambina, a conoscerla solo nelle prime settimane di vita. Allora, cosa fece Elisa? Cercò il modo migliore per esserci lo stesso, fino a quando la bambina avrebbe compiuto 18 anni. Cioè mise insieme, oltre a un vademecum su tutto quello che si doveva fare, che doveva essere un supporto per il marito, mise insieme 18 regali, 18 regali che uno l'anno a ogni compleanno dovevano contrassegnare la sua assenza come fosse una presenza struggente sicuramente, che portò la figlia Anna anche a momenti chiaramente di sconforto, ma che fu chiaramente un segnale che veniva chissà da quale altro mondo. E in questo altro mondo, un pochino, poi il regista del film, Francesco Amato, porta lo spettatore, perché a un certo punto il film ha una svolta, diciamo così, che è l'unica forse possibile per raccontare davvero questa storia, una svolta sovrannaturale, nella quale la diciottenne ormai e irrisolta, guerriera, un po' randagia, un po' ribelle, Anna, incontra sua madre, ma quando sua madre aveva lei nel grembo. E quindi è un incontro assolutamente metafisico che però si fa fisico. Le due donne si parlano, si guardano, si frequentano. Ed è un momento davvero che ci porta a tantissime riflessioni dentro questo film. Boris, devo dire che la mano di Francesco Amato, come dire, evita tutte le buche possibili in questo film, che potevano essere quelle del pietismo, potevano essere anche quelle, come dire, di farlo diventare troppo un film sovrannaturale. Per un certo periodo lo spettatore perde anche di vista il fatto che le due donne nella vita non possono essersi conosciute, sospende la credulità, e devo dire che la prova delle due attrici è davvero importante, tanto quella di Vittoria Puccini quanto quella di Benedetta Porcaroli. Sì, Francesco Amato è uno che ha fatto film come Cosimo Nicol, Lasciate andare, adesso questo 18 regali, che non sono facilmente riconoscibili, nel senso che vedendoli capisci che c'è la stessa mano, ma c'è la testa, il talento di qualcuno che vuole andare sempre altrove, rimanendo però fermo sui rapporti sentimentali in purezza, ma non nel senso retorico del termine, ma proprio quasi entomologico del termine, quasi a voler raccontare sotto il cuore, sotto la pancia, sotto le farfalle nello stomaco o il dolore, che cosa c'è. Come dici tu, è verissimo che molto si deve a questa figura algida, metodica, precisa, anche molto sentimentale, ma tutta interna a questa volontà di pianificare la vita della propria figlia, cioè di non smettere di essere se stessa, di fare delle liste, di organizzare la vita prima di un marito che ha la testa tra le nuvole, che è questo Edoardo Leo, che in questo anno, in questo 2019, ha trovato un'ispirazione, anche se siamo nel 2020, però il film è stato girato nel 2019, ha trovato finalmente, secondo me, anche una dimensione da attore di un cinema, non di commedia, non di derivazione di commedia, diretto da altri, che è davvero notevole, cioè veramente presta il suo talento a un personaggio anche lontano da lui. E quindi c'è questa Vittoria Puccini bravissima nel raccontare questa Elisa, e poi c'è questa Benedetta Porcaroli che incarna questa adolescente turbata, inevitabilmente turbata, perché subisce un'ingerenza che nessun orfano ha mai avuto, no? Questa di una madre che continua ostinatamente a rimanere. A un certo punto Edoardo Leo, nel ruolo del padre, mentre lei protesta perché questi regali lei non li vuole più, perché non vuole rinnovare questo dolore, lo vive con rabbia, gli dice nella maniera forse più fragile possibile: ma tu a me non ci hai mai pensato, cioè quanto possa servire anche a me tutto questo. Ecco, Amato riesce a parlarti alla pancia senza essere piedistico, senza essere retorico, anche attraverso questo dialogo, che in fondo è proprio quello che la mamma voleva. È un film che aveva tantissime buche, tantissime trappole in cui incorrere, e decide di spazzare via le regole che conosciamo, spazzare via anche la credulità e prendere un suo percorso. Ci sono tanti alti e bassi nel film, ci sono tante sgrammaticature, ma forse per parlare così direttamente al cuore era l'unico modo. Detto questo, portatevi fazzoletti lo stesso. E allora ascoltiamole: Vittoria Puccini e Benedetta Porcaroli, protagoniste di 18 regali. 18 regali, Vittoria Puccini, un film strano, mi viene da dire, per il cinema italiano. Cioè un salto nel metafisico in una dimensione che non c'è, per raccontare la storia di due donne che finalmente si incontrano dove la vita gliel'aveva impedito. Ma in realtà, almeno per me, l'emozione intanto deriva dal fatto che è una storia vera, e quindi racconta la storia di una donna, di una figlia, di una ragazza, di un padre, che sono realmente esistiti o che ancora esistenti. Quindi il fatto che trattiamo un materiale così prezioso, già questa è stata un'emozione grandissima. E in questo Alessio, il marito di Elisa, e la sua famiglia ci hanno accolto e ci hanno aiutato a entrare nel mondo di questa donna. E la forza del film, sì, è proprio questa, è proprio che grazie a questa storia, a questo film, a 18 regali, una donna e una figlia, una madre e una figlia che nella realtà non si sono mai potute praticamente incontrare, o si sono insomma conosciute per un tempo brevissimo, riescono finalmente a scoprirsi, a conoscersi, e anche in qualche modo ad amarsi, ecco. E questo, sì, questa è un po' la magia del cinema. Quasi come a dire che certi incontri hanno vita solo, diciamo, nei sogni, se vogliamo prenderlo come un sogno. Più che un sogno, la lettura che io ho fatto del film è come se fosse, come dice anche giustamente il regista, un incontro, un appuntamento psicanalitico che queste due donne hanno l'una con l'altra. E diciamo, per il mio personaggio è proprio l'attraversare il momento della metabolizzazione di una perdita, di un lutto. E quindi l'incontro con la mamma, in questo senso, è anche un po' una metafora più alta di questo percorso. Vittoria, tu hai lavorato anche con, appunto, raccontavi, conoscendo i familiari di Elisa, e anche lavorando sui materiali originali, diciamo. Ecco, ti volevo chiedere questo: c'è la sensazione, so che tu hai visto la famosa lista dei regali, ecco, com'è stato quell'approccio con quel pezzo di carta, quel documento che comunque aveva così tanta emotività dentro? Quando Alessio ha aperto l'armadio, ha tirato fuori questa scatola nascosta dietro a dei vestiti, una scatola marrone grande di carta, dove dentro conserva tutti questi regali che ogni anno la apre e ne tira fuori uno da consegnare alla figlia, rigorosamente secondo la lista che Elisa ha lasciato. È stato molto emozionante. E quando ci ha messo in mano la lista e anche le lettere, perché Lisa ha lasciato tre lettere, una al marito, una alla figlia e una ai genitori, sono bellissime, bellissime nella loro semplicità, perché lei poi lascia delle indicazioni anche molto pratiche, che insomma si riferiscono un po' alla vita quotidiana, chi va a prendere la figlia, se il marito fa tardi al lavoro, allora deve chiamarla la madre di Elisa per andare a prendere la figlia, cioè tutte cose che noi mamme tutti i giorni facciamo, no? Per organizzare la giornata dei nostri figli. Sì, è stato veramente emozionante, ma ho subito percepito la positività di questo gesto, cioè che è un'eredità anche ingombrante, perché per la figlia e per il marito ogni anno aprire questa scatola e scartare un regalo significa riaprire, fare i conti con una ferita profonda che loro si porteranno dentro inevitabilmente per il resto della loro vita. Però è un'eredità, ho sentito la positività di questo gesto, nel senso che è un'eredità preziosa che sono sicura accompagnerà la figlia e che le farà sempre sentire la vicinanza di una madre che fisicamente non c'è, ma che in qualche modo, grazie a questo gesto, a questa eredità che lascia, l'accompagnerà sempre. Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli, le protagoniste di 18 regali alla Rosa Purpurea. Giochiamo insieme, primo DVD game dell'anno, e vogliamo partire da un grande classico. A Medrano, va a votare a Matera. È molto tempo che manca dall'Italia. C'è mica niente da dichiarare. Per me può anche andare. E allora, se avete già indovinato da una clip meno facile, diciamo, di un film conosciutissimo, che film è, di che film si tratta, scriveteci il titolo del film e il vostro nome, cognome e indirizzo alla Rosa Purpurea @radio24.it. Ci sono due Blu-ray di questo film che vi aspettano. Più tardi vi facciamo ascoltare un'altra traccia. Adesso Lina alla regia e fra poco Checco Zalone e Tolo Tolo. Era inevitabile. L'odore delle mandorle amare gli ricordava sempre il destino degli amori contrastati. E come certi odori, a volte solo le voci possono condurci dentro le vite. Mi hanno portato tipo anche una fascetta. Quello me lo dovevo mettere quando uscivo di casa. Per significare io appartengo a loro. Vite dimenticate nei faldoni dei tribunali o nelle periferie più trascurate. Vite che aspettano solo di essere raccontate. Storiacce, i racconti di Raffaella Calandra, ogni domenica alle 21 su Radio 24 e in podcast su radio24.it. Più delle virtù spesso sono i vizi a dirci chi siamo, le ombre prima ancora delle luci. Per raccontarli userò il metodo che conosco meglio, le storie. Linee d'ombra è il nuovo programma di Radio 24 che racconta i 7 vizi capitali attraverso le storie di vita degli ascoltatori. Se volete raccontare una vostra storia di superbia, invidia, ira, accidia, lussuria, gola o avarizia, non perdete tempo. Scrivete una o due pagine e inviatela a lineedombra@radio24.it. Io sono Matteo Caccia e le racconterò ogni giorno alle 15 su Radio 24. La Rosa Purpurea. All'uscita del supermercato ti ho incontrato. Carrello, lo faccio io. Ma no, perché? Non ce la faccio. Faccio io. Fermo. Al distributore di benzina. Leggio io. Leggio io. No, scusa, ascoltami. È il mio lavoro. Al semaforo sul parabrezza c'è una mano nera con la pezza. E ritrovo quel tuo sguardo malandrino che mi dici. E già 2 euro papanino. Immigrato, quanti spiccioli t'avrò già dato. È diventato un tormentone dal primo giorno in cui ha cominciato a girare sui social questa canzone di Checco Zalone in stile un po' Celentano, un po' Toto Cutugno, o meglio in stile quando Toto Cutugno scriveva le canzoni per Celentano. Era un po' questo il mondo musicale al quale Zalone ha voluto attingere per lanciare nella solita maniera geniale il suo nuovo film, senza manco un trailer, ma semplicemente con una canzone che cominciasse a portare un po' dentro il mondo che avremmo, cui ci saremmo trovati di fronte poi davanti al grande schermo. E adesso il film è nelle sale, sta mietendo il successo che sappiamo, sta chiaramente dominando il box office, ed è anche però un Checco Zalone in qualche modo nuovo, giunto al suo quinto film. Checco Zalone innanzitutto salta dietro la macchina da presa e fa la sua prima impresa da regista, e questo è un dato importante. Si circonda a livello autoriale di un nome fondamentale e importante come quello di Paolo Virzì, che ha lavorato forse di più alla fase di soggetto e di cui magari si riconosce meno l'imprinting dentro nella sceneggiatura e nei dialoghi, per raccontare il personaggio di Checco Zalone, il mediocre, un po' arrogantello, furbo. In una parola, qualcuno potrebbe dire l'italiano. A Spinazzola, siamo proprio dalle sue parti, nel cuore delle Murge. Checco è un megalomane in qualche modo, però è un megalomane senza basi in qualche maniera. Non vuole chiedere il reddito di cittadinanza perché non fa figo, però apre un sushi nella capitale della salsiccia a punta di coltello, come si dice anche nel film. Finisce male, ovviamente, finisce sommerso dai debiti. spiriti, e cosa fa il nostro? Scappa. Scappa, va in Africa, va in un resort che potrebbe essere il Billionaire, tanto per intenderci, a fare il cameriere un po' improvvisato. Lì conosce Omar, un cameriere locale che ha il sogno di arrivare in Italia, diventare regista, una passione smodata per il cinema italiano neorealista, e in questa follia tutta zaloniana arriva, irrompe la realtà, irrompe l'integralismo islamico, irrompe la guerra, gli assalti di qualcosa che potrebbe essere Boko Haram, per intenderci. I due devono scappare e Omar decide di intraprendere il grande viaggio, anche Checco non è che ne avrebbe tanta voglia, preferirebbe farsi salvare dalle italiche flotte, ma decide che se tutto sommato sparisse dalla circolazione, anche a livello fiscale sarebbe meglio, e allora decide di intraprendere questo viaggio con Omar e con la donna che ha di cui si è innamorato lì in Kenya, la bella Hijaba, e con il suo piccolino Dudu, battuta ovviamente come il cane di Berlusconi, che ormai è diventata famosa. E qui il film cambia perché diventa un viaggio, il viaggio, quel viaggio della speranza di cui spesso sentiamo parlare nei telegiornali, l'attraversamento del deserto, le carceri libiche, la fuga, il mare, il naufragio e poi le sponde dell'amata patria. Allora, chiaramente si è detto molto anche subito dopo le proiezioni per la stampa il 27 dicembre scorso a Roma e a Milano, Checco Zalone che fa ridere meno di un tempo oppure che è più impegnato di un tempo, si sono create fazioni. Il cinema alla fine è una cosa anche abbastanza semplice. Questo è un film nel quale Checco Zalone inserisce contenuti, perché inserisce sicuramente contenuti e anche una mano e delle idee di regia. Penso all'insorgenza del fascismo da dentro come fosse un'infezione, c'è una battuta strepitosa, sì, come fosse la candida, e però cede qualcosa in termini di comicità pura, di comicità della battuta, che si concentra soprattutto nella prima parte, quella più zaloniana, e invece diventa un pochino più fluida nella parte successiva. Boris, a me questo Checco Zalone è piaciuto proprio in questa visione, in questo tentativo di spostarsi dal crescendo assurdo e incredibile e incontenibile di record incassi dei suoi film precedenti, e soprattutto mi sembra che questo non sia un film per assurdo che vada misurato proprio col record incassi, ma è un film dove cerchiamo di vedere e vediamo, forse cominciamo a vedere un comico che rappresenta tutti noi, che racconta tutti noi e che sta avvicinandosi a un baluardo assoluto che questo mestiere, questa incarnazione l'aveva fatta negli anni 50-60, che era Alberto Sordi. Ma che cosa fai dopo che hai praticamente raggiunto Avatar negli incassi? Onestamente, continuare a gareggiare al botteghino è un filo suicida, perché autobatterti sarà quasi impossibile e rischia di in qualche modo imbarbarire la tua comicità. Salone, oltre ad essere forse il miglior comico che abbiamo in questo momento, è sicuramente un uomo di straordinaria intelligenza, anche di capacità di analisi fuori dal comune, e ha capito un po' alla Salvatores, dopo che aveva vinto l'Oscar, che doveva andare altrove, che doveva non snaturarsi, perché la sua maschera è talmente potente, è talmente forte da non poter non essere usata. E in questo è come Sordi lo capì anche quando diresse i suoi film, quelli più riusciti o quelli meno riusciti, ma di poterlo utilizzare meglio. Ecco perché arriva Virgì, che è vero, hai ragione, non sembra esserci guardandolo in controluce, ma poi quando senti il profumo del "Riusciranno i nostri eroi di scuola" ti rendi conto che c'è più di quanto possiamo immaginare. Solo che Virgì da sceneggiatore vero oltre che regista, sa che quando hai un personaggio forte come Zalone tu non ti devi far vedere, devi solo supportarlo. Fa meno ridere? Non lo so, nel senso che in realtà le battute che ci sono fanno più ridere del mare di battute che venivano fatte in precedenza. Forse sono meno perché c'è una sceneggiatura più solida, c'è una storia più solida, c'è anche una volontà di racconto che va oltre il situazionismo che c'era negli altri film. E neanche è vero, perché se ci pensate, poi questo sembra un po' il sequel di Quo Vado. Che cos'era Quo Vado se non un uomo che immigrava in Norvegia e poi finiva il proprio percorso in Africa? Questo è un uomo che inizia il suo percorso in Africa, diciamo nel sud Italia, ma poi in Africa, e che vuole probabilmente andare in Norvegia, o comunque vuole andare in altri paesi, perché lui in Italia non ci vuole tornare, vuole reimmigrare in stati molto più civili di quelli italiani. L'altra evoluzione, secondo me, straordinaria di Tolotolo, che lo rende, a mio parere, il miglior film di Zalone e che probabilmente ci porta Zalone in un'altra dimensione molto interessante, molto più interessante, consentitemi di dire, quella in cui invece rischiava di incancrenirsi dopo Sole e Catinelle, è questo aspetto del portare questa maschera alle estreme conseguenze. Cioè, sfido io chiunque abbia una visione ideologica dell'attualità ad andare a vedere questo film. Per tre quarti, che sia a sinistra o che sia a destra, si sentirà consolato. Zalone lo impersonerà talmente tanto bene, esattamente come succedeva a Sordi, che si sentirà anche immedesimato perfettamente in quella maschera e in chi gli sta vicino, e convinto e persuaso della sua posizione, perché la grandezza di Zalone è raccontare tutti gli italiani medi, non solo uno, non solo il meschino appunto fascista, ma anche quello radical chic di riporto sostanzialmente, no? Quello che magari pensa che per cambiare il mondo basti vedere una trasmissione di sinistra il giovedì sera. E alla fine, nell'ultimo pezzo di film, cosa che non succedeva in Covato, perché in qualche modo il fatto che ci si trovasse in un villaggio di cannibali e si raccontasse la storia già faceva presagire che cosa sarebbe successo, alla fine Zalone dà uno schiaffo enorme, e in questo assomiglia un po' anche a quello che succede a Figaro e Picone, ma all'inizio, dà uno schiaffo enorme alla medietà, alla mediocrità degli italiani, dicendo da che parte stai, facendo qualcosa e dicendo e cantando e costruendo un percorso narrativo che è molto più estremo e molto più coraggioso di qualsiasi film d'autore nel messaggio politico che manda. Tolotolo è il tentativo di un uomo che è diventato più popolare dei Beatles, o quasi, almeno in Italia, di dire qualcosa qui e oggi su cosa siamo diventati. Lo fa bene, lo fa in maniera molto lucida, lo fa in una maniera feroce, perché gioca col politicamente corretto, cercando di non infrangerlo mai, ma di fatto lo infrange costantemente, fino ad arrivarci a dire delle cose che noi non vorremmo sentire, scusatemi, anche se rido leggermente meno, e parlo di quantità, non di qualità, viva Dio, rido molto molto meglio. E allora, andiamo ad ascoltarlo, Checco Zalone, perché durante la presentazione romana appunto ha fatto seguire una conferenza stampa nella quale ha raccontato anche un po' alla sua maniera la genesi di questo film, cominciando proprio da come è nata la collaborazione con Paolo Virzì. Paolo mi ha chiamato e aveva questo soggetto. Abbiamo cominciato a frequentarci, a scrivere, e piano piano mi rendevo conto che glielo stavo rubando, che diventava mio. Quindi ho costruito anche in scrittura, sempre insieme a lui, però il personaggio su di me. Poi, in effetti, quando io sono andato a girare, non che mi sono pentito, però ho capito l'immensa difficoltà di questo lavoro, perché hai tutto in mano. Hai la responsabilità del cast, della produzione, e lì un po' bestemmiato, avrei voluto che tornasse lui. Poi quando giravamo qualche scena che invece andava bene, diceva no, è meglio che l'ho fatto io. E invece sulla produzione importante, gran parte girata in zone anche desertiche, soprattutto in Marocco, sentiamo Zalone. È stato faticosissimo, perché si è accanita anche la sfortuna. Pensate che ha piovuto nel deserto, non succedeva da 20 anni, mi hanno detto i marocchini, che non ha mai piovuto. Quel giorno, cazzo, è andata a piovere, quindi sono state 20 settimane di pioggia, dispendiose e durissime. È un film, come dicevamo, dove a un certo punto la guerra irrompe, e chiaramente vuol dire cambiare anche il registro, sia di recitazione che di regia. Sentiamo. Beh, per esempio la scena, la sequenza iniziale della questa guerriglia, e io che non vengo minimamente insomma toccato da quello che mi succede intorno, diciamo che è venuta lì, perché ho provato a girare, io ho spaventato, che succede? La poi non funzionava, e lì ho colto, diciamo, l'occasione per costruire il personaggio, che secondo me è anche un po' una metafora dei nostri giorni, cioè uno che è incapace di guardare oltre i suoi piccoli contingenti problemi, quindi scoppia una guerra intorno, ma lui c'ha i cazzi suoi, le ex mogli, le tasse. Su questa similitudine che è stata fatta, intanto sulla sua esperienza da regista, ma anche sulla similitudine con Alberto Sordi. No, regista è ancora presto, mo, non so ancora che vuol dire bene. Come attore, Alberto Sordi, sì, tento insomma, di procedere sul solco segnato da quella gente lì, insomma, di sicuro valore superiore. Tolo procede appunto con la sua narrazione intervallata da momenti musicali, tradizione un pochino del cinema di Zalone, ma qui addirittura rinforzata. A un certo punto c'è una sorta di numero da musical durante il naufragio della barca dei migranti nel Mediterraneo, con una canzone chiaramente politically scorrect, come solo Checco sa fare. Sentiamo. La scena in acqua, la canzone è una canzone di speranza. La canzone dice: da qualche parte nel planisfero c'è sempre uno stronzo un po' più nero che guarda il cielo. Ora sembra di citare Ungaretti. Io quando ho girato questa scena l'ho spiegato ai ragazzi che l'hanno fatta e devo dire che loro hanno apprezzato, si sono commossi. Però lì era difficilissimo perché rischiavi di cadere o nella presa per il culo gratuita e cinica e inutile, oppure nel moralismo, nella ruffianata. E quando mi è venuta in mente, ecco, è nata prima la canzone e poi la scena. Checco Zalone ha raccontato così in conferenza stampa il suo Tolo che vi abbiamo inquadrato qui alla Rosa Purpura, dominatore degli incassi. Noi giochiamo però insieme prima di dare a linea la viabilità, perché abbiamo la seconda traccia, guarda, fra comici mi viene da dire, la seconda traccia del film misterioso di oggi. Anteriore destra, come voleva si dimostrare? Porco giudaccio infame! Vabbè, adesso comunque, senza farci prendere dallo sconforto, vediamo immediatamente di individuare dov'è la colonnina di emergenza più vicina. Ma cosa c'entra la colonnina, Furio? Ma per il servizio di soccorso esci? Magda, sveglia di tesoro! Ma Furio, per una gomma? Magda, è un nostro diritto chiamare, un loro dovere arrivare. Un altro gigante assoluto della commedia e della comicità italiana. Titolo del film, vostro indirizzo, La Rosa Purpura, @radio24.it. Ci sono due Blu-ray che vi aspettano. Linea alla viabilità, l'ultimo film, l'ultimo grande nome qui alla Rosa Purpura in questa prima puntata del 2020. Fra poco sarà con noi Ken Loach. Radio 24 arricchisce i suoi contenuti con un'offerta on demand che sentirete in esclusiva, solo in podcast. Vai su radio24.it, nella sezione Scelti per voi, per scoprire ogni settimana quali saranno i lavori di domani, come orientarsi nella scelta della scuola per i figli, ascoltare come sono nati i più grandi successi della musica italiana, conoscere nuovi luoghi attraverso le storie di chi li ha vissuti. Radio24.it, un nuovo modo di vivere la radio, con le voci, le interviste e le storie più interessanti da ascoltare, da qualsiasi device, in qualsiasi momento. Radio 24. La passione si sente anche in podcast. La Rosa Purpurea. Quarta parte della Rosa Purpurea e ancora novità in sala in questo primo weekend del nuovo anno, del nuovo decennio. Abbiamo sentito Checco Zalone, abbiamo parlato e sentito anche le protagoniste del film 18 regali. Adesso un altro grande nome, quello di Ken Loach, che esce in una, come dire, in una collocazione sicuramente rischiosa e coraggiosa, quella ancora del pieno delle feste di fine e di inizio anno, con il suo nuovo film che si intitola Sorry, We Missed You, presentato al Festival di Cannes, che ancora una volta ovviamente recupera i temi cari al grande maestro del cinema popolare e impegnato inglese. La storia di un uomo, Ricky, di una donna, sua moglie Abby e dei loro figli che vivono a Newcastle, famiglia molto unita, però sempre sul limite, il borderline con la famosa quarta settimana della quale si fa fatica ad arrivare, e soprattutto col senso che più di così non si potrà fare. Lei fa l'assistenza domiciliare a persone anziane e disabili, lui è stato occupato in diversi mestieri, lavorano duro entrambi ma non riescono a mettere via niente praticamente, che sarebbe poi il coronamento del sogno di una casa di proprietà. E allora l'idea è quella di vendere la macchina di Abby e di comprare un furgone con il quale Ricky possa diventare un padroncino, possa diventare un corriere freelance. ma le cose non saranno e non sono mai come sembrano. Mi è venuta un'idea. Quale? Facciamoci una mangiata di indiano stasera. La mamma è libera. Sì. Possiamo pagarla con le tue mance. No. Mi fai il favore di chiamare Seb e gli chiedi quello che vuole e cerchi di convincerlo a stare con noi. Io vorrei tanto che voi non litigaste così. Lo vorrei anch'io. Boris, non ho amato questo Ken Loach come altri suoi film, non perché sia brutto, anzi è tutt'altro che brutto, è un film molto interessante, molto di cuore, ma a mio modo di vedere torna su tematiche già affrontate in passato con tanti film di impegno civile ai quali Ken Loach ci aveva abituato, però... Al di là di questo, un feeling magari che non è immediato, è un film che sposta in una cosa sicuramente l'asticella più in là. Cioè, per la prima volta che Loach mette il suo racconto e il suo essere sempre al fianco di chi lotta per i propri diritti e per un mondo migliore, mette il suo racconto a disposizione di qualcuno che fino a qualche anno fa sarebbe stato giudicato un piccolo imprenditore, cioè qualcuno che esce non tanto dalla working class quanto dal settore del lavoro dipendente, dove il sistema ti schiaccia, pensate a Paul Meek e gli altri, ai ferrovieri, a tutto quel mondo lì, ma lo porta a un settore di libero mercato, di libera professione, che ci dice Ken Loach tanto libera non è, ed è il prossimo, forse il presente obiettivo di un sistema che è schiacciante anche a quei livelli. Allora, hai ragione da vendere. Loach è diventato sempre meno ideologico e con lui Laverty, il suo sceneggiatore, per un semplice motivo. Loro due non raccontano storie ideologiche o storie ideali. Loro semplicemente indagano, scoprono e raccontano. Laverty e Loach l'hanno proprio raccontato, hanno parlato, c'è anche un cartello alla fine che lo dice del film, ringraziamo tutti coloro che ci hanno raccontato il loro lavoro ma non sono voluti apparire, hanno preteso l'anonimato, quindi non si sono andati a sporcare le mani, e quando ti sporchi le mani scopri che il mondo non è fatto di buoni e cattivi, di rossi e neri, di capitalisti, padroni e schiavi, ma è fatto di una tonalità di grigi che forse sono anche peggio. Si trova un po' più a disagio del normale, cioè da una parte secondo me le aspettative dopo un film che rimarrà tra i più belli di Loach come Io, Daniel Blake, inevitabilmente ci condiziona. C'è da dire che però tutte le piccole cose di questo film che sono interessanti sono proprio questo lavoro sul campo. Quando ci sono le scene di famiglia, tu hai l'impressione di vedere un documentario, è come l'impressione di essere là. Quel talento che ha Loach e Laverty di metterti al tavolo con quelle persone, di immedesimarti dolorosamente nelle loro traversie, quasi che tu fossi coinvolto nella loro avventura, nel loro passo più lungo della gamba, nell'incapacità di far fronte a tutto questo, lui quello riesce a farlo straordinariamente, e ci conferma una cosa: che faccia belli o brutti film, che faccia film più o meno riusciti, Loach è un po' come Dickens, un po' come Victor Hugo, nessuno racconterà più determinate storie, nessuno racconterà più un pezzo di mondo come avrà fatto lui in questi decenni. Persino registi vicini a lui politicamente e anche come visione del mondo, come Dardenne, non arrivano a quella profondità, a quella capacità di segmentare e analizzare la società e restituircela in tutta la sua verità. E quella forse è la sua più grande forza. Forse noi dovremmo cominciare dickensianamente a immaginare la cinematografia di Loach non come una serie di film, ma come una serie di capitoli di un unico grandissimo film, perché è come se fosse un grande Heimat dei lavoratori, un grande Heimat del proletariato. Probabilmente adesso che lui appunto ha superato gli 80 anni e in qualche modo trova nella sua cinematografia anche una sorta di cosmogonia, bisogna veramente immaginarla in questi termini, perché è così che secondo me la studieremo sui libri di storia. Poi forse hai ragione, questo film non è altrettanto riuscito, non è altrettanto fluido, ma il racconto di quest'uomo che cerca di fare il salto non per avidità ma semplicemente perché vuole dare un'opportunità ai propri figli, perché vuole che la propria famiglia, che di solito no, nell'ideologia un concetto tra virgolette di destra possa avere più opportunità e semplicemente vuole cercare un po' più di felicità, perché i rapporti interpersonali, che siano familiari o no, passano anche per la dignità del proprio lavoro, per la realizzazione che tu hai nel tuo lavoro, e sarebbe stupido non ammetterlo. Forse è qualcosa che comunque va raccontato, e probabilmente non è così facile come quell'eroe quasi caparezziano di Io Daniel Blake, che era una vittima a tutto tondo. Qua, di fronte a una vittima non a tutto tondo, forse ci sentiamo più a disagio, però io di Loach non riesco a fare a meno. È stato bello oggi. Sì, è vero. Possiamo rifarlo? Certo che possiamo. Il bip dei 2 minuti. Aspetterà. Una vita scandita dai tempi delle consegne. Anche noi di Loach non riusciamo a fare meno, tanto è vero che l'abbiamo intervistato, lo ha fatto per noi Chiara Pizzimenti, partendo dagli obiettivi di questo suo nuovo film, Sorry We Missed You. This is the reality for most drivers. Questa è la realtà per molti corrieri e volevamo lasciare il pubblico con un senso di rabbia e insieme di responsabilità. La realtà è che Ricky è prigioniero di quel furgoncino, è prigioniero dei debiti, delle responsabilità che ha nei confronti della sua famiglia. L'unico modo che ha per risolvere la situazione è lavorare su quel furgone. Se avessimo mostrato qualche attività sindacale, avremmo dato agli spettatori una via di fuga, una scorciatoia. E invece volevamo che il pubblico pensasse: ci dobbiamo organizzare, perché tutto questo è intollerabile. Sembra non esserci nel suo film, in questo film, nessuna speranza, solo frustrazione e rabbia, che dovrebbero far partire quel senso di responsabilità che diceva prima. È così, nessuna speranza. Yes, I think the present circumstances. Sì, sono queste le sensazioni. Nella nostra società cresce la povertà e quindi l'insicurezza, le ineguaglianze e la precarietà lavorativa. Tutto questo dovrebbe farci arrabbiare e renderci determinati a cambiare le cose, perché non siamo obbligati a vivere in questo modo. C'è la minaccia dei cambiamenti climatici e lasciamo che anche questo sia nelle mani di chi crede nel mercato totalmente libero, il cui unico obiettivo è il profitto. Questo porta al disastro ed è nostra responsabilità cambiare le cose. Come è nato questo film? Well, when we were researching the previous film. Mentre facevamo ricerche per il film precedente, I Daniel Blake, che parlava di povertà e persone che hanno bisogno di aiuti statali loro negati, ci siamo recati nelle organizzazioni di carità che distribuiscono il cibo. Qui abbiamo incontrato molte persone che non avrebbero altrimenti mangiato regolarmente. Molte di queste persone avevano un lavoro, che però non permetteva loro di guadagnare abbastanza per mangiare. Abbiamo pensato così di approfondire l'argomento. Da questo abbiamo scoperto la realtà del lavoro precario. E il prossimo? Il prossimo film, non so davvero se ce ne sarà un altro. Per ora faccio come nel calcio. Vado avanti una partita alla volta. Ken Loach intervistato da Chiara Pizzimenti alla Rosa Purpurea per Sorry We Missed You, e noi invece salutiamo Boris Sollazzo e diamo appuntamento alla prossima settimana. Ciao Boris. Alla prossima settimana, buon cinema e ancora buon anno a tutti. Noi prima di chiudere abbiamo ancora qualche piccola incombenza di fine trasmissione. Non vi avevamo ancora dato i nominativi dei nostri vincitori del DVD Game di Kamikazen. Cosa fai? Pulisci i cessi? No, faccio il facchino. Facchino, però da domani potrei essere anche un comico. Paolo Rossi nel secondo film di Gabriele Salvatore, Kamikaze, L'ultima notte a Milano, avevano vinto Carmelo Bontempo di Tre Mestieri Etneo, provincia di Catania, e Andrea Gabrielli di Limbiate, provincia di Milano. Invece, per chiudere dobbiamo dirvi qual era il game di oggi. Beh, l'avete sicuramente riconosciuto in tanti: Bianco, Rosso e Verdone, di Carlo Verdone ovviamente. Settimana prossima ne parleremo con Giulio San Giorgio, che ritroveremo qui. Io vi ricordo il nostro appuntamento come sempre alle 18 il sabato con tutto il cinema che c'è alla Rosa Purpurea.